giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 9 rinvii a giudizio per la morte di Stefano Borghese, caduto in un pozzo a Gorizia, un patteggiamento e 2 riti abbreviati. Emergenza siccità, la regione stanzia 18 milioni di euro per realizzare nuovi invasi per le scorte idriche. Bagnare l'orto tra limiti e divieti, il disappunto di chi coltiva verdura, un fazzoletto di terra. Ucciso da una bomba piazzata nella sua auto, il somalo condannato e poi assolto per omicidio, Ilaria Alpi. 2 misure cautelari e 44 milioni di euro sequestrati per frode sulla vendita di carburanti tra Napoli, Trieste e Frosinone. Anche ieri quasi 2.000 positivi al coronavirus e 2 decessi, il pronto soccorso di nuovo sotto pressione. Anoressia al Burlo di Trieste, boom di pazienti con disturbi alimentari, sono soprattutto ragazze e sempre più giovani. Calcio, scatta la campagna abbonamenti dell'Udinese a prezzi invariati e a fine luglio al Friuli amichevole con il Chelsea. 7:19 minuti di giovedì 7 luglio, buongiorno da Eva Ciuc e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile sulla nostra regione. Le temperature registrate alle 5 di stamane a Trieste c'erano 24 gradi, vento 40 km orari da est-nord-est Borino, mare mosso con temperatura di 26 gradi e mezzo. A Gorizia 18 gradi, a Udine 20, a Pordenone 19 gradi. Sul Piancavallo 12 gradi, a Sappada 10, a Tarvisio 15 gradi, a Forni di Sopra 13, 18 gradi a Tolmezzo. Sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Lussari 9,5, a Grado e a Lignano 22 gradi, temperatura del mare 28 gradi. Le previsioni: al mattino sarà probabile nuvolosità variabile su tutte le zone, in giornata su pianura e costa poco nuvoloso, sui monti variabile. Dal pomeriggio probabili rovesci o temporali, prima in montagna e poi anche sulle altre zone. Non escluso qualche temporale forte sulla costa in mattina e di sera soffierà Borino, di giorno brezza. 3 condanne e 9 rinvii a giudizio nell'udienza preliminare del processo per la morte del piccolo Stefano Borghese, caduto in un pozzo e morto a 13 anni mentre stava partecipando ad un centro estivo parrocchiale nel parco della Villa Coronini di Gorizia. Per i 12 imputati, 3 condanne e 9 rinvii a giudizio. Condannato a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni il direttore della Fondazione Coronini Enrico Graziano, che con l'avvocato Luci Grai aveva scelto il patteggiamento subordinato alla concessione della libertà condizionale. Graziano di fatto esce dal processo. Condanna di 2 anni e 8 mesi al primo responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione del comprensorio, Federico Costadura, difeso dall'avvocato Merlin, che non potrà fruire della sospensione condizionale della pena essendo questa superiore ai 2 anni, ma potrà comunque ricorrere in appello. 2 anni al secondo responsabile della sicurezza, Matteo Turcutto, difeso dall'avvocato Buffon, con sospensione condizionale e opzione d'appello. Per entrambi inoltre una provvisionale di 50.000 euro ciascuno ed un eventuale passaggio in sede civile per ulteriore quantificazione economica. Rinvio a giudizio fissato al 13 gennaio 2023 per i 9 membri della Fondazione Coronini, presieduta di diritto dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e che vede tra i componenti l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e la soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi. Nel dibattimento l'avvocato Donolato, difensore di Raffaella Sgubin per il curatorio, ha sostenuto l'incongruità dell'esclusione dal procedimento degli organizzatori del centro estivo, ovvero il coordinamento delle parrocchie goriziane. Sentiamo l'avvocato della famiglia Borghese, Salvatore Spitaleri. Questo primo vaglio è stato importante anche perché ha individuato il tema delle omissioni in materia infortunistica. La famiglia di Stefano non cerca pene esemplari, ma lotterà fino in fondo perché quello che è accaduto a Stefano non possa accadere in questa città e in ogni città del nostro paese. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sempre minori, risorse idriche sempre più scarse. Dopo la decretazione dello stato di emergenza da parte del governo anche per il Friuli Venezia Giulia e 4 milioni di fondi, ieri la regione ha stanziato 18 milioni di euro per le opere di raccolta dell'acqua. si accelera sulla realizzazione di bacini idrici che permettono di trattenere l'acqua nei mesi più piovosi e di utilizzarla in estate per irrigare i campi. La giunta regionale ha stanziato 18 milioni inseriti in un emendamento all'assestamento di bilancio. I fondi rispondono alle richieste dei 3 consorzi di bonifica che avevano nel cassetto progetti per costruire nuovi invasi o rimettere in funzione i vecchi. La grave crisi idrica di questi mesi ha riportato al centro il tema non solo del risparmio, ma anche della capacità di trattenere l'acqua. L'assessore all'agricoltura Stefano Zagner. È un piano straordinario che renda disponibile in modo strutturale e duraturo la risorsa idrica e consente al sistema dei nostri consorzi di andare a realizzare nuove opere che possano sopperire a quella deficienza di raccolta delle acque che oggi diventa sempre più evidente a tutti. I consorzi invieranno i progetti all'amministrazione regionale che assegnerà i fondi in base alle priorità di intervento. La maggiore necessità di questi impianti si registra nel Friuli centrale, orientale e nell'Isontino, mentre nel Pordenonese ci sono già 5 invasi. Ogni nuovo bacino può costare dai 3 ai 6 milioni a seconda della grandezza. I finanziamenti si aggiungono ai 5 milioni con cui i consorzi renderanno più efficiente l'irrigazione, riducendo gli sprechi. Per questa finalità gli enti potranno attingere anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La Regione destinerà in assestamento di bilancio per la parte relativa all'ambiente, energia e mobilità quasi 42 milioni di euro con i quali verranno date risposte ad una serie di esigenze specifiche. Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scocimarro intervenendo a Trieste ai lavori della quarta commissione consiliare chiamata ad analizzare ed approvare gli articoli di propria competenza. Tra le poste più cospicue c'è quella relativa al supersconto sui carburanti per tutto il 2022, operazione che verrà garantita con 15 milioni di euro. Alla luce della recente crisi idrica, in assestamento saranno stanziati anche 1,5 milioni a favore di comuni, società e associazioni sportive per l'efficientamento ecologico degli impianti sportivi, sia sotto il profilo energetico che quello idrico. 1 milione sarà utilizzabile per concedere contributi per l'acquisto di biciclette a trazione muscolare ed elettrica per i privati e 1 milione sarà destinato all'aeroporto di Trieste per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. E in questo periodo caratterizzato dall'emergenza siccità, molti comuni sono alle prese con le ordinanze salva acqua, ma ci sono gli orti da irrigare e ci si deve ingegnare per annaffiarli senza sprechi. L'acquedotto è un servizio alla persona, non all'orto chiaramente. È chiaro che nel momento in cui c'è quel minimo di esigenza dell'orto va razionalizzata nei momenti in cui non ci sono utilizzi da parte del cittadino. Cittadini alle prese con le ordinanze salva acqua emesse dai comuni che impongono il divieto di utilizzare la risorsa idrica della rete pubblica di acquedotto per usi che non siano quelli potabili e igienico-sanitari. Per chi ha orto e giardino questo significa poter bagnare solo nelle ore serali e possibilmente al minimo o recuperando l'acqua piovana. È corretto che sia limitato l'utilizzo dell'acqua perché ce n'è talmente poca con questa siccità. Lei ha giardino, orto, come fa a bagnarlo? Con delle taniche di riserva utilizzando l'acqua piovana. La mia vicina di casa mette la sveglia alle 5 di mattina per andare a bagnare praticamente l'orto. La sera dopo le 10 oppure la mattina mi alzo alle 6 per bagnare un pochino, ma dico l'indispensabile, l'erba, pazienza, ricrescerà. E se a irrigare il giardino o a riempire la piscina si rinuncia più facilmente, si cerca di salvare almeno l'orto. Risparmi facendo l'orto, risparmi, non vai al supermercato, non fai cove, risparmi parecchio insomma. E chi ha la volontà di farlo è giusto che bagni. Lavare la macchina no, solo per uso personale o per uso agricoltura, insomma per vivere, per mangiare. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle difficoltà del conflitto in Ucraina e della scarsità delle materie prime per le aziende si aggiungono gli ostacoli dovuti alla mancanza di autotrasportatori. A livello nazionale la carenza è stata calcolata sulle 30.000 unità. A Stefano Adami, presidente del settore trasporti di Confartigianato Udine, abbiamo chiesto di quantificare quanti autisti manchino in regione. In Friuli Venezia Giulia mancano circa 1 migliaio di autisti, che è un problema generalizzato in tutta Italia, ma direi anche in tutta Europa. In Italia mancano circa 20.000 autisti, ma questo problema ce l'ha anche la Francia, la Spagna, la Germania, eccetera, e anche l'Est Europa. Come si è creata questa situazione? Si è creata dal fatto che la professione di autista non è più appetibile e attraente per i giovani. Questo perché è un lavoro piuttosto impegnativo che fa stare le persone fuori di casa per intere giornate o settimane addirittura, secondo la tipologia di viaggi che si devono fare. Inoltre è una professione che richiede delle qualificazioni iniziali che hanno sia un costo che un impegno in termini di tempo per ottenere le certificazioni adeguate a svolgere questa professione. Quanto guadagna in media un autista? Gli autisti sono inquadrati col contratto nazionale dell'autotrasporto, per cui dipende dall'incarico che hanno, dall'autocarro che conducono e dalla durata dei viaggi che fanno. Diciamo si va da un minimo all'incirca di 1.500 euro fino ad arrivare anche a 3.000 euro per chi fa viaggi internazionali o da fuori da tutta la settimana. Noi con Partigianato stiamo studiando un progetto per reclutare delle persone che vogliono avviarsi a questa professione. È un progetto che vedrà la partenza nei prossimi mesi, un progetto che è totalmente gratuito per chi vorrà conseguire sia la patente di categoria superiore, quindi parliamo di patente C, CE, e sia il certificato di qualificazione del conducente, che è quell'abilitazione che è necessaria per poter svolgere la professione di autotrasportatore. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Beni per 44 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza, 5 società e 6 persone fisiche indagate per associazione a delinquere nella provincia di Napoli, che ha coinvolto anche Trieste e Frosinone. La Guardia di Finanza ha anche notificato 2 misure cautelari. La Procura di Napoli contesta agli indagati l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e una frode carosello nella commercializzazione di prodotti petroliferi durata anni con interposizioni fittizie di altre società e fatturazioni inesistenti. Sarebbe stata creata una catena di società dislocate in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania per assicurare introiti illeciti per decine di milioni di euro grazie alle imposte evase in termini di IVA e di accise. Un duo di rapper ha scelto il cimitero austro-ungarico di Aurisina come location per un videoclip diffuso poi sui social. I fatti al cimitero di Aurisina hanno la stessa gravità che ebbero quelli al sacrario di Re di Puglia, commenta l'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti, uno scempio che purtroppo si è ripetuto a distanza di pochi anni e che calpesta la memoria dei caduti. Auspico una pena esemplare, ha concluso Roberti, anche a finalità deterrenti, a tutela della memoria che questi luoghi custodiscono. Parole di condanna sono arrivate anche dal sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovets, che segnalerà la gravità dell'episodio all'autorità giudiziaria. Il primo cittadino ha definito il video un oltraggio alla memoria. Un cittadino austriaco è stato investito intorno alle 21 di ieri sera da una motocicletta mentre stava attraversando la strada in largo Piave a Trieste. Pare che l'uomo di 48 anni e senza documenti al momento dell'incidente abbia attraversato la strada con il semaforo rosso per i pedoni senza guardare, mentre la moto passava con il verde. Le condizioni del pedone sono apparse subito gravi sul posto, polizia e vigili urbani e 2 ambulanze. I sanitari hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo all'ospedale di Cattinara. Per il motociclista diversi traumi, ma non gravi. Incidente d'auto ieri pomeriggio a Fusina intorno alle 17.30, coinvolte 2 auto in uno scontro frontale che ha provocato anche la temporanea chiusura della strada statale 54. 7 le persone coinvolte, di cui 5 di nazionalità ungherese, 2 del posto, tutte ferite lievemente che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sul posto vigili del fuoco di Udine e dell'isoccorso. Per la madre di Ilaria Alpi non c'erano dubbi, non era stato il Somalo Hassan a uccidere la figlia Emiran Hrovatin. Condannato e poi assolto, l'uomo oggi è stato ucciso da una bomba a Mogadiscio. A Mogadiscio una bomba sotto il sedile dell'auto ha ucciso Ashi Oman Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio dei nostri colleghi Ilaria Alpi e Miran Rovatin, uccisi il 20 marzo del 94 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un'inchiesta sui traffici di rifiuti e armi. Perché uccidere Hassan oggi? Si sarebbe rifiutato di pagare il pizzo che i terroristi islamici di Al-Shabaab gli avrebbero chiesto sul risarcimento di 3 milioni di euro stabilito dalla Corte d'Appello di Perugia 4 anni fa al termine del riesame della sua condanna. Fu assolto in primo grado, la Procura di Roma lo condannò in secondo grado a 26 anni, era il 2000. Ne ha scontati 17 nel carcere di Padova fino all'assoluzione data dal Tribunale del Riesame perugino. Hanan era innocente, non faceva parte del comando che uccise i giornalisti italiani. Ad accusarlo era Ali Ahmed, detto Gelle, che poi aveva ritrattato. A chi l'ha visto aveva ammesso di aver dichiarato il falso perché gli era stato promesso che avrebbe lasciato la Somalia. Secondo la famiglia Alpi è sempre stato evidente il depistaggio che impedisce di dare un nome ai mandanti e anche agli esecutori di quella strage. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso parliamo dell'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Sono giorni di nuova pressione su ospedali e pronto soccorso con diversi pazienti positivi al coronavirus in attesa di ricovero, una quindicina ieri a Udine. Nella maggior parte dei casi i sintomi Covid però sono assenti, lievi o moderati grazie al vaccino e alla minore virulenza della variante Omicron. Alla luce di ciò le regioni intendono proporre al Ministero della Salute un cambiamento dei protocolli che renda meno rigida la gestione dei pazienti positivi. Quelle rappresentate dal vice governatore e assessore alla sanità Riccardo Riccardi alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni sono state formulate sulla base delle valutazioni dei 3 primari di infettivologia del Friuli Venezia Giulia. Tra le loro proposte, l'interruzione degli screening tra gli operatori sanitari, la fine dei tamponi ai pazienti non sintomatici e il superamento della separazione netta tra reparti Covid e non Covid, con la creazione di bolle in reparti specialistici. E ora i dati della pandemia: sono 1931 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in regione, quasi 8000 i tamponi effettuati e la percentuale di positività sfiora il 25%, quasi un test su 4, insomma, positivo. Si sono registrati 2 decessi, il giorno prima erano stati 5, i ricoverati in terapia intensiva ieri erano 7, invariati rispetto al giorno precedente, salite di 8 unità le persone accolte in altri reparti, 170. 83 in tutto. E parliamo adesso di anoressia e bulimia. Al Burlo di Trieste è boom di pazienti con disturbi alimentari, soprattutto ragazze e sempre più giovani, ad incidere la pandemia, tanto che gli operatori chiedono alla regione di far nascere un centro residenziale per questi disturbi come ne esistono nel vicino Veneto. Il centro più vicino si trova a Porto Gruaro, una residenza per giovani con disturbi del comportamento alimentare. Le ragazze qui trascorrono giorno e notte, gestite da personale dedicato. Una struttura simile in Friuli Venezia Giulia al momento non esiste, ma gli operatori ne sentono il bisogno di fronte alla crescente richiesta d'aiuto. Quadruplicate rispetto al periodo pre-pandemia le visite per questi disturbi negli ambulatori dell'ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Triplicati i ricoveri in neuropsichiatria infantile. In Friuli Venezia Giulia sono 3 le strutture semi residenziali a Monfalcone, Udine e Pordenone, ma sono troppo poche e sono solo diurne. Grazia Di Leo, gastroenterologa Burlo. La struttura più vicina è della Regione Veneto e attualmente, un po' per i problemi di Covid e anche per l'incremento della patologia stessa, i tempi di attesa si sono allungati di molto e c'è difficoltà, diciamo, nell'avviare le pazienti a queste strutture. Concorda sulla necessità di far nascere una struttura residenziale l'assessore Riccardo Riccardi, da noi contattato, che ha messo in piedi un gruppo tecnico con questo scopo. Di fronte ad un disagio giovanile crescente, aumenta la necessità anche di formare nuovi psicologi, tanto che il loro percorso formativo è stato accorciato di un anno. Eliminato l'esame di Stato, la laurea è abilitante, obiettivo in mettere più psicologi nel sistema pubblico. Tiziano Agostini, professore di psicologia generale all'Università di Trieste. Molto importante che lo psicologo sia integrato all'interno del sistema sanitario nazionale alla stregua del medico di base. Viviamo in una società dove il disagio psicologico è crescente anche a causa di quello che è successo recentemente, e quindi un supporto psicologico dovrebbe essere offerto dalle istituzioni. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È tempo di immatricolazioni alle Università di Trieste e di Udine per entrambi gli Atenei, più di qualche novità nei corsi di laurea del prossimo anno accademico. Attenzione all'ambiente, lezioni in presenza e democratizzazione del sapere accademico. Ripartirà da qui il prossimo settembre l'Università di Trieste e mentre dall'11 luglio riaprono le immatricolazioni, in Ateneo si prepara l'avvio di 3 nuovi corsi di laurea. 2 magistrali per conoscere e preservare il nostro ambiente prezioso e fragile, scienze per l'ambiente marino e costiero e geofisica e geodati, che arricchisce anche l'offerta formativa in inglese, e una magistrale a ciclo unico, scienze della formazione primaria. Cresce anche la no tax area portata a 26.000 euro in un'ottica inclusiva verso le fasce economicamente più deboli e restano confermate le agevolazioni per merito che rappresentano la metà dei contributi totali per esoneri parziali e riduzioni. E da settembre si tornerà a fare lezioni ed esami in presenza perché le interazioni tra docenti e studenti sono fondamentali per la comunità accademica. Ma l'esperienza della didattica da remoto maturata negli ultimi 2 anni non andrà perduta e verrà incontro alle esigenze di categorie come studenti fragili o lavoratori. Novità anche all'Università di Udine, anche in questo caso nel segno della preservazione dell'ambiente. L'Ateneo Friulano è infatti tra i fondatori del National Biodiversity Future Center, la più importante iniziativa di ricerca e innovazione sulla biodiversità mai intrapresa prima in Italia, finanziata con fondi PNRR per 320 milioni di euro. 48 le realtà che aderiscono al progetto, tra università, organismi di ricerca, fondazioni e aziende, con l'obiettivo di monitorare, preservare e ripristinare la biodiversità negli ecosistemi marini, terrestri e urbani della nostra penisola, valorizzandone la biodiversità e rendendola un elemento centrale su cui fondare lo sviluppo sostenibile del paese. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Inizia oggi la 22esima edizione del convegno biennale della Società Internazionale della Teoria della Gestalt e delle sue applicazioni, che indaga la complessa relazione tra mente e contesto nelle molteplici espressioni in cui si manifesta. Inaugurazione al Museo Revoltella di Trieste alle 16, fino a domenica i lavori del convegno si terranno nel comprensorio centrale dell'Università di Trieste, edificio H3, oggi e domenica. Partecipazione aperta al pubblico. La Fondazione ITS Volta per le Nuove Tecnologie della Vita apre i propri laboratori a potenziali nuovi studenti per far conoscere le attività formative del settore Life Science, dedicato a ricerca, sviluppo e produzione di beni legati alla salute, con particolare attenzione a biotecnologie, farmaceutica e dispositivi medicali. Sarà possibile anche visitare 2 laboratori che ricreano un ambiente ospedaliero. A Basovizza, all'area Science Park, edificio Q, alle 16. C'è tempo fino al 18 luglio per iscrivere i bambini ai servizi educativi di preaccoglienza, postaccoglienza e doposcuola breve o completo per il prossimo anno scolastico, servizi erogati dal Comune di Udine nelle scuole statali, primarie e cittadine. L'accesso alla piattaforma di iscrizione è consentito unicamente tramite SPID ed è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi utilizzati negli anni precedenti. Le famiglie che regolarizzeranno i pagamenti dopo il 18 luglio e dentro il 21 settembre potranno essere inserite in una lista d'attesa. Infine, le iscrizioni saranno nuovamente riaperte dal 22 settembre e andranno a costituire una graduatoria di riserva. Siamo allo sport, al calcio, con l'Udinese che ha lanciato la nuova campagna abbonamenti che parte questa mattina alle 9. Il titolo scelto dalla società è Penso sempre a te. Restano invariati i prezzi, come accadde nel 2015. Il primo segmento della campagna, dedicato alla conferma del posto per i vecchi abbonati, senza dunque cambio posto, durerà fino al 19 luglio. Sarà possibile rinnovare la tessera online al sito sport.ticketone.it, nelle rivendite autorizzate TicketOne e all'Udinese Point in curva nord alla Dacia Arena. Dal 20 al 26 luglio scatterà una nuova fase. Sarà possibile per tutti i vecchi abbonati della stagione 2019-2020 che non avevano rinnovato lo scorso anno sottoscrivere la tessera beneficiando della tariffa agevolata e scegliendo, se ancora disponibile, anche il posto che avevano. Abbonamenti esclusivamente all'Udinese Point. La terza fase, sempre per i vecchi abbonati, permetterà di cambiare il posto occupato nel precedente campionato. La quarta ed ultima fase, destinata alla vendita libera, scatta il 29 luglio e prosegue fino al 13 agosto. Tornano da oggi anche le speciali tariffe agevolate per gli abbonamenti a 16 gare, escluse quelle contro Inter, Juventus e Milan, riservate a studenti, famiglie e sportivi, tariffa unica di 70 euro. E sempre ieri l'Udinese ha annunciato che sarà una partita con gli inglesi del Chelsea a chiudere il programma delle amichevoli in vista delle prime gare ufficiali. I campioni d'Europa 2021 affronteranno i bianconeri di mister Andrea Sottil venerdì 29 luglio alle 21 al Friuli. Il precedente tra Udinese e Chelsea nel 2001, sempre a Udine, finì 1-1. Ora gli spettacoli. A 2 anni dalla scomparsa di Ezio Bosso, artista, compositore, direttore stabile residente del Teatro Verdi di Trieste, l'ensemble dei suoi amici musicisti lo ricorda fra note e parole nella città in cui ha trascorso l'ultimo viaggio artistico della sua vita. In scena con l'attrice e mezzo soprano Giulia Diomede, il quintetto formato dal pianista Daniele Bonini, con Edith Milibach al violino, Danilo Sisto al contrabbasso, Chiara Bosco al corno, Domenico Lazzaroni al trombone, con la partecipazione del compositore Dorian Dionisi. Gli interpreti della serata hanno conosciuto Enzo Bosso e fatto parte del suo progetto musicale, legandosi a lui umanamente e professionalmente, a Trieste al Castello di San Giusto alle 21. Il cantautore Zucchero Fornaciari si esibirà in una nuova tappa del suo Worldwide Tour a Palmanova in Piazza Grande in un concerto serale che già ha registrato il tutto esaurito. In occasione del concerto del Bluesman, nell'atrio del comune è stata allestita la mostra inedita Zucchero, una vita nel blues, visitabile fino a venerdì 8 luglio ad ingresso libero dalle 18 alle 22, oltre ai consueti orari d'apertura degli uffici comunali. Il collezionista palmarino Andrea Visintini esporrà la sua raccolta privata di vinili, CD e altre rarità che ripercorrono più di 40 anni di carriera del cantante emiliano. Tra i memorabilia, i dischi di platino ed oro in copia unica e nominale, i dischi di prova realizzati prima dell'uscita del disco originale per un totale di 359 pezzi unici, tra cui spicca l'edizione dorata e numerata del suo album più famoso Oro, Incenso e Birra. La rassegna More Than Jazz sarà inaugurata a Udine questa sera da Gegè Telesforo in Piazza Libertà alle 21.30. A Pordenone, nel parco di San Valentino, il rapper e cantante San Giovanni alle 21.30. Torna il Festival Musica in Villa, concerto di apertura nel cortile di Pignola Tomba di Meretto di Tomba, omaggerà Tina Modotti ad 80 anni dalla morte con il Tinissima Quartet di Francesco Bearzatti alle 21. Il Festival delle Arti in Lingua Minorizzata Suns Europe prosegue con il concerto di Mauro Palmas e Francesco Meda Moruzzo al Forte di Santa Margherita del Gruagno a Moruzzo, dunque alle 21. All'International Piccolo Festival, la magia dell'Ottavino con Nicola Mazzanti, già primo flauto presso l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, a Grado, Basilica di Santa Eufemia, alle 21. Per il Festival Internazionale di Musica e Territori, nei suoni dei luoghi, a Pavia di Udine, il concerto La Vita è Bella della Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi Trieste, alle 21, con le colonne sonore di alcuni fra i più bei film del cinema italiano. Folkest, festival dedicato alla musica di tutte le etnie e culture del mondo, propone l'esibizione del gruppo Help, tributo ai Beatles, a Travesio all'Auditorium alle 21. A Forgaria, festival musicale, si comincia stasera con country, bluegrass, hillbilly e folk blues di Joe Bastianic con la terza classe alle 21. E sono 16 le diverse nazionalità dei partecipanti attesi ai 5 festival internazionali del folklore in Friuli Venezia Giulia. Oggi al debutto regionale con il Festival del Folklore Giovanile a Roveredo in Largo Indria alle 20:45 con protagonisti da Bulgaria, Montenegro e Slovacchia. Siamo alla rassegna stampa, cominciamo con il Piccolo di Trieste. Il titolo principale si riferisce ai progetti a rischio. Parco del Mare, resta l'impegno di Costa e ICOP. Il ritiro dei finanziamenti regionali non condiziona il futuro dell'opera voluta dalla Camera di Commercio. Questo è anche il tema del capocronaca all'interno del giornale, dove si parla anche dell'Ovovia. Il comitato No Ovovia chiede un incontro al municipio. Il sindaco ci riceva e poi la replica appunto del sindaco. Discutiamo, ma lasciate stare il tram. In primo piano la fotonotizia dello yacht sequestrato al magnate russo con il titolo Il costo giornaliero dello yacht. In taglio alto la ripresa del Covid e i concerti, nessun rinvio per i Maneskin a Roma e prova invalsi, il 60% degli allievi supera la sufficienza. La cronaca, rapper sotto accusa per il videoclip girato al cimitero di Austria e il caso del conducente del bus insultato e malmenato da 4 giovani. In taglio basso c'è anche un titolo che riguarda l'impatto del clima sui nostri mari. Dalmazia, il mare a 30 gradi e la moria di cefali. La pagina dell'economia, nelle pagine interne, Fincantieri sigla l'accordo con MSC, costruirà altre 2 navi a idrogeno, ordine supplementare per il brand di lusso Explora Journey, in tutto investirà 3,5 miliardi di euro. Oltre il 60% degli allievi supera la sufficienza. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine sui risultati delle prove invalsi di primavera. Nella fotonotizia, il calcio, l'Udinese mantiene invariati i prezzi a fine mese amichevole con il Chelsea. In taglio alto, il numero uno dell'acciaio a Porto Nogaro, ieri sopralluogo di Danieli e Emet Invest per il nuovo polo siderurgico. Ad aprire la cronaca cittadina, le opere pubbliche a Udine, materiali e costi pesano sulla durata dei cantieri. Di spalla, in prima, morto a Lignano l'imprenditore che fondò il Mister Charlie, poi ospedali sempre più sotto pressione per l'ondata Covid e si spacciava per 007 e perseguitava la ex, 1 anno e 8 mesi la condanna. In taglio basso a Dia Paola Beltrame, collaboratrice del quotidiano per più di 30 anni, raccontò il medio Friuli. Siccità 18 milioni per i nuovi invasi, l'apertura del Gazzettino, inserto del Friuli. Nella fotonotizia Amazon tira il vento dello sciopero nelle 3 strutture della regione. Long Covid, 2 studi dell'Istituto Superiore di Sanità per capirne gli effetti saranno condotti in Friuli, Venezia Giulia, Toscana e Puglia. Di spalla, largo mezzi, musica e negozi aperti. Poi gli stalli rosa per donne in stato di gravidanza, la proposta per anche agli anziani. E in basso, Udinese, gli abbonamenti ignorano l'inflazione. Per il basket invece, Old Wild West sceglie Palumbo Nikolić nel motore Gesteco. Il Piccolo di Gorizia e Monfalcone dedica il titolo principale in prima pagina dunque all'udienza preliminare per la tragedia al Parco Coronini. Stefano morto nel pozzo, 2 condanne, 8 a giudizio, a processo con il sindaco Ziberna e l'assessore regionale Gibelli, anche il resto del curatorio. Nella fotonotizia il conto del blackout di martedì a Monfalcone, cibo e farmaci buttati via, colpite 10.000 utenze Enel, batosta dunque al commercio e anziani rimasti bloccati da soli in ascensore. La cronaca, la giunta di Gorizia, dopo la rielezione dunque del sindaco Ziberna, la Lega rivendica deleghe pesanti a Sara Filisetti, dovrebbero essere affidate le opere pubbliche, l'ipotesi di Chiara Gatta, vice sindaco. Poi ancora un altro titolo in prima pagina, coglio in allarme per il rincaro appalti, bilanci a rischio. E poi ancora insultata autista APT, una donna sulla quarantina, picchiato il passeggero che la difendeva. Poi nella pagina della cultura c'è anche un richiamo in prima pagina, Monfalcone espone le opere di Tullio Crali, ritornate a casa nella Galleria Comunale di Monfalcone. Oggi apre una mostra dedicata all'artista sempre rimasto fedele al movimento futurista. Tari, scoperti quasi 3.000 evasori, l'apertura del Gazzettino di Pordenone, la nuova raccolta rifiuti porta alla luce i fantasmi della tassa. Il sindaco Ciriani dice tutti dovranno pagare 5 anni. Infermieri stressati, un nuovo taglio alle sale operatorie, saranno ridotti gli interventi programmati. Di spalla Sacile, caro energia, il comune punta sul fotovoltaico e a Porcia. Ager pronta ad investire 30 milioni, l'azienda produce quadri elettrici. A centro pagina anche qui l'avvertenza Amazon. In taglio basso, calcio e ramarri puntano sul sinistro magico di Marras, accanto ai mondiali di atletica. In vista ci sarà vista Trost in corsa per una poltrona e vicino marmolada tra le vittime. Un manager della rimorchi Bertoia, Tommaso Carollo di Tiene, aveva a casa a Porcia. Sul Messaggero Veneto cambia la colonna di cronaca, la fiera corre ai ripari, vasche per recuperare l'acqua piovana. Sotto sanità, accordo su part-time e risorse, resta il nodo personale. E poi Loviso confermato, la presidenza della scuola Mosaicisti. In taglio basso i nuotatori disabili rivogliono la loro piscina San Vito al Tagliamento, inattiva a causa del Covid. Il Servizio Biblioteche di Trieste informa che causa lavori di manutenzione all'impianto antincendio. Da oggi e fino a sabato 30 luglio i musei letterari dedicati a Italo Svevo e James Joyce e la Biblioteca Ortis saranno chiusi. Inoltre da oggi la Biblioteca Comunale 48 Gambini sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato solo al mattino, dalle 8.30 alle 13 a causa del malfunzionamento dell'impianto di condizionamento e per tutelare la salute degli operatori e utenti. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vuefevelindi con il progetto dedicato ai confini della società alpina friulana. Alle 11.19 Vintage, ospite Carlo Massarini, conduttore di programmi di culto come Per voi giovani e Mister Fantasy. I programmi regionali tornano poi alle 13.30. In regia Tommaso Vinoni e Riccardo Stoic. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Da Eva Ciucca e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.